Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, Sharing City è un progetto europeo il cui obiettivo è costruire prototipi di quartieri smart e a energia zero, riqualificando però l'esistente. 25 i milioni di euro messi a disposizione dall'UE e 6 le città coinvolte, tra queste Milano, che per ora è stata anche l'unica a riuscire a coinvolgere nel progetto i privati, con i primi cantieri che riguardano nello specifico i condomini di Via Verro e Via Tito Livio, due grossi condomini che sono partiti. Oggi le barriere alla riqualificazione dell'edilizia residenziale, ne abbiamo parlato tante volte, non sono tecniche e sono solo in parte economiche. Più spesso, soprattutto nei paesi con una proprietà immobiliare molto spezzettata, come appunto è l'Italia, sono barriere di tipo culturale a determinare il fallimento di iniziative che magari sono solide sotto gli altri punti di vista. Il risultato raggiunto a Milano quindi è rilevante, proprio perché è riuscito laddove è più difficile in genere portare a casa il risultato e dove al tempo stesso è anche più urgente intervenire. Pensiamo anche al tema dell'inquinamento dell'aria. Ne parliamo con Cecilia Ugoni, amministratore delegato di Teikos, che è l'azienda edile che si è aggiudicata il bando europeo ed è anche il referente europeo per l'edilizia del progetto Sharing City. Buonasera, benvenuta Ugoni. Buonasera, grazie. Allora, senta, intanto qualche dettaglio in più, se ce lo racconta, sul progetto Sharing City. Sì, il progetto è portato avanti da un consorzio di circa 30 istituzioni, tra municipi, città, università, centri di ricerca, associazioni e piccole e medie imprese. Tre città, che sono Lisbona, Londra e Milano, hanno scelto, ognuna di loro ha scelto un'area, e vuole applicare in quest'area, diciamo, lo stato dell'arte della Smart City, quindi con interventi sulla mobilità, sull'efficientamento energetico degli edifici esistenti con un occhio specifico sul residenziale, l'illuminazione pubblica, e realizzare questi interventi attraverso attività di co-design, co-progettazione, coinvolgimento dei cittadini da un lato e un livello di gestione dei dati avanzato dall'altro. Ecco, vediamo in che modo questo progetto poi si sta concretizzando a Milano. Sì, a Milano è stata scelta, l'area che è stata scelta è quella chiamata Porta Romana Vittabia, è una zona a cavallo tra la zona 4 e la zona 5 di Milano. In questa fetta di città verranno implementati ulteriori servizi di car sharing e bike sharing, soprattutto elettrico, con dei punti di ricarica e interventi di sensorizzazione dei lampioni per migliorare la conoscenza della città. E poi c'è un'azione, diciamo, specifica sugli edifici. Ecco, sugli edifici veniamo, che è l'aspetto che ci interessa di più. Parliamo complessivamente di riqualificare 25.000 metri quadri, di cui 21.000 privati e 4.000 pubblici. Quelli pubblici sono di fatto due case popolari, come si diceva una volta, mentre 21.000 metri quadri sono grandi condomini privati con decine, o in qualche caso anche più di un centinaio di appartamenti. No, abitati da persone che sono proprietarie del loro appartamento, il tipico contesto nel quale di solito non si riesce a fare nulla. Invece qui quali saranno gli interventi che verranno messi in campo? Allora, l'Unione Europea ha posto dei vincoli, chiaramente devono essere interventi di riqualificazione energetica profonda, quindi ci vuole una riduzione dei fabbisogni di almeno il 55-60% e integrazione di energie rinnovabili. Ecco, quindi gli interventi sono involucro, il classico cappotto, sostituzione degli infissi, si interviene sugli impianti, queste cose qua, no? Esatto. E veniamo a questa parola chiave, che è quella che lei ha già pronunciato, insomma, che è coprogettazione, che è il processo, ed è questa la parte più innovativa, no, di questo lavoro, il processo che ha coinvolto direttamente gli abitanti di questi condomini e che, ripeto, è l'elemento che di solito non si riesce a far partire e spesso fa fallire queste operazioni. Allora, innanzitutto il processo è stato disegnato in collaborazione con Legambiente e con DASSO, il Dipartimento del Politecnico di Milano. I condomini sono stati selezionati attraverso un avviso di manifestazione manifestazione di interesse, certo, pubblicato da AMAT, a cui si sono presentati una cinquantina di condomini. Sì. Su questi è stato fatto uno studio preliminare e poi è stata portata in assemblea la proposta di delibera di entrare nel progetto Sharing Cities. 20 di questi condomini hanno approvato, sì, di entrare nel processo e quindi hanno partecipato al co-design. Questo cosa significa? Da un lato, dei tecnici specializzati hanno eseguito una diagnosi molto approfondita di questi 20 edifici. Mm-hmm. Contemporaneamente i condomini sono stati organizzati in 3 gruppi e ogni gruppo ha assistito a 3 incontri di coprogettazione. Il primo incontro è stato chiesto ai condomini di definire quale sarebbe stato il loro condominio ideale, quali erano i problemi che riscontravano giorno e giorno e come li avrebbero risolti. E anche i punti di forza, no? Quindi aspetti, esatto, positivi e aspetti negativi. Questo si identificano nel primo incontro. Nel secondo si comincia a discutere di come, immagino, risolvere i problemi, no? Esatto, quindi nel secondo ogni condominio ha a sua disposizione un tecnico specializzato che porta con degli strumenti di comunicazione studiati apposta per rendere semplice anche al condomino, diciamo, cioè, per esempio ti porto un pezzo di materiale invece che parlarti di, no, strane formule, sì, esatto, te lo faccio vedere per capirsi. E le dicevo, il secondo incontro, sì, era parlare insieme delle prestazioni energetiche dell'edificio e poi costruire insieme attraverso proprio un gioco con delle schede, okay, la proposta di intervento ideale. Quindi il condomini hanno costruito la proposta di intervento che ritenevano guidati, mm-hmm, e quella più reale, guidati chiaramente dai tecnici competenti. Al terzo incontro queste proposte costruite in modo quasi ludico sono state ripresentate ai condomini con questa volta i numeri in termini di costo, certo, di risparmio energetico, i cash flow, le opportunità di finanziamento, la quota lavori che era effettivamente finanziata dalla Commissione Europea e anche con i risultati a livello ambientale. Cioè il tuo condominio, fare questo intervento vuol dire piantare quanti alberi nella sua città in termini di miglioramento della qualità dell'aria, che è un tema su cui adesso c'è un'altissima, per fortuna, sensibilità. E quindi in questo terzo incontro i condomini sceglievano uno dei 2 scenari da riportare nel loro condominio. A questo punto si faceva un quarto incontro, questa volta in condominio, in un momento appunto anche lì leggero, con magari offrendo un aperitivo, ma nel cortile era... alla fine dice, una volta che sono ubriachi è più facile che dicano sì. Quindi questo quarto incontro serviva a presentare a tutti i condomini sostanzialmente la soluzione che era stata identificata. A questo punto il condominio decide o meno di votare in assemblea l'intervento, no? Esatto. È finito a questo punto il processo e, come abbiamo capito, 4 condomini sono già partiti, tra un po' arriverà il 5º, sarà l'ultimo a quel punto perché saranno finiti i soldi del progetto, esatto, europeo. E allora, però è un successo questa cosa. Allora le chiedo, il successo è un successo del processo o è un successo dovuto al fatto che, insomma, ci sono dei soldi dell'Unione Europea che comunque pagano una parte di questi interventi? Ok, allora, senz'altro questo è un dato importante, adesso non lo voglio minimizzare. È stato interessante che questo incentivo arrivasse sull'obiettivo e non sulla singola tecnologia. Secondo me è un'esperienza che bisognerebbe tener conto nel disegno di incentivi per questo tipo di mercato. Ma al di là di questo, la cosa che ci ha sorpreso è stato vedere come alcuni condomini che avevano magari dalla Commissione pagato un 15% del valore degli interventi hanno effettivamente approvato, e sono quelli che hanno partecipato più attivamente al percorso, e altri invece che, se uno guardava i numeri, diceva ma non posso dire di no, hanno la metà dell'intervento gratuita. Invece hanno declinato. Assemblea, esatto, a declinare la cosa. Grazie allora Cecilia Hugoni. Grazie a lei e arrivederci a presto a tutti gli ascoltatori. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani. Buona serata.